Se ci sono interventi, domande, questioni, insomma, proviamo a costruire. Posso Sì. fare un inizio appunto di questa situazione che sono in realtà appunto una linea di razza, una linea di classe che si incrocia. Sia nell'ebook che è stato pubblicato subito dopo, quindi all'inizio di settembre più o meno, e sia poi in delle interviste che abbiamo pubblicato negli ultimi giorni proprio per seguire un po' la dinamica dopo la sentenza, quindi i riot che ci sono stati dopo. In una di queste interviste appunto si legge che ad ottobre a Ferguson erano stati organizzati una 3 giorni di dibattito e di discussione proprio intorno a quello che era successo e all'imminente poi sentenza. E una parte insomma di questi giovani afroamericani riuniti praticamente non è che si è scontrata, ha però c'è contestato. stata una contestazione nei confronti invece di quelli che erano i vecchi leader o comunque i vecchi attivisti del movimento afroamericano. E la spiegazione, la giustificazione è perché effettivamente questi giovani afroamericani dicevano: noi non siamo interessati a difendere i vostri diritti, che in realtà è un claim che ritorna, che è ritornato anche nella storia, insomma, dei movimenti dei diritti civili e appunto nella contrapposizione delle due figure storiche, King e invece il movimento Black Panther, quindi Marco. Malcolm X. E anche in questa cosa qui, quindi di scollamento quasi di alcuni diritti civili che effettivamente l'America formalmente ha riconosciuto agli afroamericani, però poi di fatto non sono agiti e quindi l'afroamericano non può oggi agire quei diritti formali che effettivamente sono stati il risultato di anni comunque di lotte e di movimento. Quindi questi giovani è come se dicono hanno il diritto in questo momento, quindi l'istituzione e quindi anche la giustizia, in questo momento a noi non ci interessa perché comunque non ci riconosce come soggetti. Quindi noi non vogliamo lottare, tra virgolette, per un riconoscimento formale di un diritto, noi vogliamo lottare per una possibilità concreta di agire quei diritti. E in questo senso forse anche i riot, la forma riot, perché è esplosa proprio questa contraddizione, questa rabbia, è esplosa nella forma appunto dei saccheggi, cioè proprio della riappropriazione di qualcosa di materiale che a me mi viene negato. E quindi anche quello slogan, forse appunto Justice not peace, anche lì c'è cioè, quasi da leggere giustizia sociale. Ci deve essere e se non c'è non ci sarà pace sociale, più che giustizia appunto di sistema giuridico, perché secondo me c'è proprio uno scollamento, una mancanza di fiducia totale dettata dalle condizioni materiali degli afroamericani nei confronti appunto dell'istituzione e quindi anche del diritto. E questa cosa, ripercorrendo appunto la genealogia degli Stati Uniti, è interessante perché, come diceva Didier adesso, perché si può tornare allora a parlare di Black Panthers? Perché lì effettivamente la contraddizione fra il movimento dei diritti civili e quindi King e Malcolm X era proprio questa, cioè i Black Panthers dicevano sì, ok, dobbiamo conquistare dei diritti che poi loro dicevano effettivamente noi non dobbiamo conquistare niente, perché nella dichiarazione di indipendenza quei diritti sono dichiarati come verità autoevidenti, quindi sono nostri e noi non li dobbiamo riconquistare. Dobbiamo semplicemente eliminare quei lacci, quegli ostacoli che ci permettono di agire questi diritti. Però accanto a questo discorso, tra virgolette, di diritti, le Black Panthers appunto facevano un discorso anche di classe, cioè di riappropriazione delle condizioni materiali che effettivamente lì vai a smontare il razzismo, perché sennò il razzismo è lì, il razzismo attraversa la società americana perché ci sono gli afroamericani destinati a delle posizioni sociali e tali rimarranno, ci sono i latinos destinati a delle posizioni sociali e tali rimarranno perché magari non riescono neanche ad avere accesso alla conoscenza della lingua inglese. Quindi, cioè, secondo me è interessante seguire anche la forma riot che si sta dando, sia perché è una messa in discussione di un sistema razziale che va appunto avanti da, veramente si entra nella storia degli Stati Uniti e che soltanto formalmente è riuscita, tra virgolette, un po' a nascondere e a coprire in questo periodo. E poi, ovviamente, è interessante in questo momento perché, e questo si ricollega al discorso di prima, quindi alla sfiducia nelle istituzioni, si ha un presidente nero afroamericano che praticamente non ha avuto neanche, cioè non ha spostato neanche di un millimetro la situazione in 6 anni e anche questo fa capire la sfiducia nei confronti proprio dell'istituzione in sé e quindi anche della Costituzione. Io dico che se, no, dico che se ogni volta che un ragazzino nero muore per strada, ammazzato dalla polizia, prendono fuoco le città, forse un po', diciamo, la vedo più incisiva come pratica Disobbedienza civile a strada. per far passare No, il discorso dei diritti formali e poi della realtà che uno scrive è un problema assolutamente centrale, è la questione di fondo di come le società contemporanee, le società occidentali siano quanto meno siano attraversate da in modo intrinseco rispetto a quella che è l'organizzazione del lavoro e l'organizzazione della forma Stato, sono attraversate dalla questione del razzismo. Cioè, mi veniva in mente prima quando parlava Didier, John Locke, adesso non per fare la filosofa che non è il mio campo, però John Locke che è una delle figure assolutamente centrali della costruzione della narrazione americana, è quello che definiva la libertà come è libero colui che ha la proprietà della propria persona. Quindi erano proprietari della propria persona tutti i bianchi ricchi, non gli schiavi neri e non le donne. Ecco, questo è, se noi assumiamo questo dato come il dato fondante della realtà, della cultura, della civiltà dentro la quale viviamo, e allora il problema dei diritti formali e poi della realtà concreta che si vive, mi pare che insomma basta tornare alle origini in modo così un po' suggestivo, però penso che poi il problema sia molto legato a questo. Cambiare la legge, cambiare l'ingaggio dei poliziotti che fanno le pattuglie per strada, magari nei quartieri più complicati, cosa di cui si è discusso, dotare diversamente, fare addestrarli diversamente, dotarli di strumentazioni differenti, meno offensive, non cambierebbero comunque la questione se poi un tribunale decide, come è stato fatto in questa occasione, ma anche in occasione della non incriminazione del poliziotto che ha soffocato Eric Garner a New York nel mese di luglio, cioè poi lì basta rendere nulla la testimonianza di un testimone nero, perché in quanto nero risulta, e questo è il commento che riporto un altro dei pezzi del lavoro di inchiesta che stiamo facendo dentro Commonware per approfondire quello che sta succedendo. Proprio oggi abbiamo pubblicato un contributo di una compagna americana, te ne accennavo prima, dove la giustificazione del procuratore di St. Louis rispetto alla non incriminazione di Darren Wilson è perché le testimonianze dei neri non potevano essere credibili in quanto troppo coinvolti, perché vivono una situazione di tensione continua con la polizia dentro un quartiere che è un quartiere della periferia di una città bianca molto impoverita, dove i processi di gentrificazione sono stati profondissimi, dove come molte città americane la segregazione spaziale è netta e completa. Allora, se poi il diritto, c'è la libertà del diritto di funzionare in questo modo, mi pare che appunto forse davvero sono le pratiche concrete. D'altra parte le Black Panther si erano armate come esercizio di autodifesa proprio per non essere ammazzati. Poi, strano poi alla fine che hanno fatto, perché i servizi di controintelligenza degli Stati Uniti insomma hanno lavorato in modo piuttosto capillare, insomma, però diciamo c'è un problema, c'è assolutamente un problema sostanziale, il problema anche che dei diritti affermativi, dell'affirmative action. La cosa interessante è che negli Stati Uniti a partire dagli anni, diciamo, intorno agli anni 80, dentro tutte quelle conquiste che erano state raggiunte dalla lotta degli afroamericani e delle altre minoranze, perché poi noi qua parliamo di afroamericani, però bisogna considerare che la società americana è molto eterogenea, molto complessa, dove le minoranze, dove i problemi che vivono gli afroamericani sono vissuti in maniera magari specifica, però anche dalle altre minoranze, i latinos, i cinesi, tutta la provenienza asiatica, insomma, quindi giusto per non non dimenticarci queste cose, entro per sul filo del discorso. Le Cosa? affermazioni. Sì, ecco, gli affirmative action sono stati messi in discussione proprio appigliandosi a quel discorso formale del diritto, di una uguaglianza universale, che però poi non fa i conti con quelle che sono le condizioni materiali, concrete. Per questo quando parliamo di razzismo non possiamo parlare di un problema ideologico. Quello del razzismo non è un problema di malfunzionamento della società. Il razzismo è un problema che sta molto radicato nelle condizioni di vita di ciascuno. Se tu sei razzializzato e sei anche povero, la possibilità che tu hai di accedere alle tue libertà, proprio perché c'è anche probabilmente quel retaggio di non essere proprietario della tua stessa persona, che rende un po' complicata la cosa. Per questo la battuta, soltanto se prendono fuoco le città si possono cambiare le cose. Penso che sia un problema che è in parte, è sicuramente un problema degli Stati Uniti, ma è più complessivamente un problema che riguarda tutte le società dentro, almeno le società occidentali. Niente, io invece riflettevo sulla questione che Mariana diceva poc'anzi pure, perché mi sento molto coinvolto nel senso di voler trovare una relazione tra i conflitti generazionali interni alle comunità negre e quelli che possono essere degli elementi comuni con i conflitti generazionali che posso avere qua io con e altre comunità che puoi trovare in tutti i percorsi di lotta in genere. La questione dei diritti civili, diritti fini a loro stessi, cioè nel senso scatole vuote oppure frutto di norme programmatiche, cioè nel senso che lo Stato dice sì, poi lo faccio, poi lo farò, mettiamo in Costituzione, poi vediamo quando e come applicarlo. Questa questione qui a livello poi dopo di, come dire, di un'analisi sulle varie gradazioni di presa di coscienza, è parallelo alla costruzione degli stati moderni, contemporanei in questo caso, molto contemporanei, nel senso che gli Stati Uniti nella segregazione separati ma uguali avevano nei loro sobborghi, nelle città, nei ghetti, veri e propri confini per le comunità diverse, comunità diverse che comunque vivono la loro vita, nonostante ci siano problemi di accesso alle libertà, si lavora, si fanno figli, si fanno feste, vedi le culture musicali come rappresentano questo che dico. Per dire cosa? Che a differenza di altri paesi dove vi sono problemi razziali forti, cosa che l'Italia non concepiva, non può concepire, come il Brasile, nella mia esperienza ultima, loro passano in Brasile dalla schiavitù ad un regime di eguaglianza. E anche lì la contraddizione è forte, più forte forse negli Stati Uniti dove si è avuto un processo vero e proprio. Le contingenze storiche sono differenti, la rivoluzione industriale fa sì che gli schiavi non servano più in Brasile, dove era il primo partner e dove era il primo attore mondiale il Brasile nell'importazione di schiavi. E quindi loro si ritrovano misturati, comunque geograficamente collocati, la parte nera del Brasile, a doversi confrontare alla pari per le prime volte. Invece gli Stati Uniti, con la loro gradualità, fanno sì che all'interno delle comunità negre si creano delle classi dirigenti negre, delle classi nere più istruite degli altri, perché c'era quello che c'aveva il bar e poteva pagare l'istruzione alla figlia, rispetto a quello che lavorava ancora come colf. O ancora c'era il nero che ormai aveva il figlio che era riuscito a diventare avvocato. Quindi nonostante le disparità, vi era quella sedimentazione, dell'uomo libero al negro. Uomo libero al negro che credeva in tutte le, libertà, infatti è libero, no? Il nero repubblicano, in quello che è il mito vero e proprio dato dall'assetto istituzionale. Questo mito si contrapponeva alle Black Panthers, si contrapponeva al movimento dei diritti civili nel momento in cui pensa che la struttura vera e propria delle istituzioni possa da sola, senza far niente, portare ad un'eguaglianza. Quindi è il nero buono, la trasposizione del nero da capanna, dal nero da cortile, viene chiamato, non nero dei campi, The Butler, l'ultimo film riuscito in materia. E adesso penso che non ci sia più agio al nero buono, non ci sia, come dire, quella questione di tolleranza, perché come io dico a mia madre, io non scendo in piazza per avere il permesso di soggiorno in tempo, cioè non mi interessa quel diritto lì a stare. Io scendo in piazza come i ragazzi francesi, le balliere, che si vivono adesso con una cittadinanza di serie A, come dicevo prima. Quindi è importante che anche lì ci sia all'interno del movimento stesso un fermento che è già pronto. Cioè una volta che ci sia un cambio generazionale, ci sono altri ragazzi con altre idee, perché dall'altro lato il potere si organizza, processi di gentrificazione, dicevi, cioè ci sono vari modi per agire che alla fine, a parte il diritto in sé per sé, dobbiamo capire che la norma non esiste se non è condivisa. Se io e te non ci mettiamo d'accordo, per cui non si fuma, non si arriverà mai ad avere un non fumare o qualcosa. Allora, quando tutti sono d'accordo, ok, può essere imposto con il cartello, però se ci mettiamo tutti quanti d'accordo, la norma vedrai che sarà rispettata ancora di più, perché sarò io a dire a quello a fianco a me di non farlo. Quindi la condivisione della norma che sta alla base di tutto va lavorata, e va lavorata con la disobbedienza civile, con i riot, tutto quanto. No, infatti... Sì, perché negli anni 60 si chiamava disobbedienza civile, facciamoci arrestare tutti, rendiamo le carceri inutilizzabili, Martin Luther King. Oppure ogni nero morto, due poliziotti morti. O ancora, cioè adesso la questione di sfondo la città. Nella smart city, tutta fiore all'occhiello, che stanno ponendo tutte le amministrazioni comunali dei vari spazi di adesso, io da sfondo dove violenza cieca e rabbia. E anche questa è un'altra forma, anche se a dire il vero l'ultima forma, questa qua di sfondo tutti, tutto e tutti è, come dire, giuridicamente rilevante per una forma, cioè nel senso, non... come sfondare la macchina di Salvini, viene in mente, simbolicamente forte, giuridicamente, non te la giochi assai. No, ma infatti rispetto alle considerazioni comunque di questo dibattito, appunto poi parlandone collettivamente, no, vengono fuori tante questioni che da soli non si riesce a vedere, questa è anche la cosa positiva, e mi veniva in mente proprio, no, anche di tutti i processi di contraddizione che ci sono stati, come diceva Didier, come diceva Marianna, non solo negli Stati Uniti, appunto pensiamo al Sudafrica, al partito nero che comunque è al potere ancora oggi, però un partito nero al servizio della supremazia non solo bianca ma delle grandi multinazionali, degli ebrei del diamante. Ma scusa se ti interrompo, anche durante la schiavitù c'era la classe dirigente afro che permetteva comunque la schiavitù, che comunque aveva una risposta un po' più forte con noi. No, ma infatti appunto c'è una dimensione in cui anche negli Stati Uniti, così come in tanti altri posti, appunto c'è un pezzo di classe dirigente che è nera, no? Di cui Obama, ma come diceva di Diego, Condoleezza Rice ancora prima, Colin Powell, no? Che erano appunto anche lì un pezzo di classe dirigente nera. Che però appunto non cambia la sostanza delle cose, si tratta appunto di un'inclusione differenziale di piccoli pezzetti che sono però funzionali poi alla riproduzione di tutto il sistema economico-sociale che produce povertà, ghettizzazione, sfruttamento molto, molto grosso, perché poi appunto una delle dimensioni fondamentali, no, delle lotte che stiamo vedendo in questi giorni, anche dei video che girano su Facebook, e che non sono solo delle lotte delle comunità nere, ma che parlano anche a tante persone che non sono nere, che però sentono quell'ingiustizia come un pezzo di un'ingiustizia più generale, che loro non vivono in prima persona, ma che mi viene da dire come è stato nelle lotte della logistica in Italia, per tanti aspetti si è costruita, no? Una dimensione in cui non solo di solidarietà, ma in cui vedi lo stesso terreno, per quanto ci siano delle differenze. E appunto anche qui, facendo dei paralleli, quando appunto si fanno i picchetti non significa dire che la composizione universitaria è uguale appunto a una composizione per il 95% migrante che lavora appunto, che fa dei lavori da facchino. Però significa, come ci siamo detti in tanti mesi, vedere che nonostante appunto le differenze anche di sia appunto anche di partenza, perché partire dal ceto medio in via di declassamento non è come partire invece appunto da chi non, insomma dalla dimensioni anche proprio di povertà maggiori, però vedere un terreno comune che non è soltanto di solidarietà esterna, ma appunto laddove si vede che vincere nelle lotte della logistica immediatamente anche vincere, avere più forza nelle lotte all'università, nelle lotte contro le cooperative che poi sono il sistema di sfruttamento generalizzato non solo appunto della comunità migrante ma di tutti quanti poi in Italia. Quindi avere dei punti di applicazione della forza che però immediatamente sappiano non chiudersi ma parlare di generalizzazione. Poi anche con delle forme diverse, come storicamente è sempre stato, in cui anche il diritto è un campo di battaglia che serve, diciamo, per avere degli appigli concreti su cui far partire i riot, ad esempio, perché se non c'era questa dimensione anche di una palese ingiustizia, anche giudiziaria, cioè di un gran giurì che nemmeno comincia il processo, non è che dici fai il processo e li assolvo, ma nemmeno lo comincio il processo. Di fronte a questo partono i riot e parte anche la dimensione poi conflittuale. Quindi è ovvio che ci sono più cose che si costruiscono anche su ambiti diversi, su spazi diversi, tra cui il diritto, senza per questo diciamo poi cadere, come si diceva giustamente prima, nella dimensione per cui sarà il diritto a cambiare qualcosa, cioè le cose o si cambieranno materialmente in dei processi di cambiamento, che se vogliamo chiamarli con parole altisonanti rivoluzionari o comunque di cambiamenti radicali dell'esistente che riescano a coinvolgere una composizione larga, oppure le maglie del diritto sono le maglie che vediamo già oggi all'opera, in cui una piccola minoranza, anche nera, viene anche tutelata, però poi per il resto diciamo i cambiamenti sostanziali non esistono. Cioè nel diritto sì, si può cambiare il fatto che il prossimo gran giurì o un processo lo cominci, che la polizia abbia delle regole di ingaggio diverse, però poi di fondo i processi che producono, come diceva Annette, i processi materiali che poi vanno a confliggere con quel diritto, sono il vero motore del cambiamento, utilizzando tante cose come campo di conflitto. Non è che questo voglia dire allora che ci siano solo i riot, no, c'è anche una costruzione affermativa, cioè appunto le Pantere Nere erano i fucili, ma erano anche l'auto-organizzazione intera di quartieri, erano la dimensione in cui si costruiscono relazioni nuove e diverse, erano anche una pars construens che in tutte le lotte diciamo che partono anche da un no. Da un no a un'ingiustizia, da un no a una grande opera, da un no a un qualcosa di palese che vede di fronte agli occhi, però riesce a cambiare. Ecco, questa è la scommessa, penso, anche negli Stati Uniti, la scommessa che siano delle lotte espansive e che possano collegarsi ai cicli di lotte, ad esempio sul salario minimo, ai cicli di lotte degli scioperi che vengono fatti, perché poi è lì che si vince anche la battaglia razziale, come ci siamo detti tante volte. Cioè fare le lotte della logistica, costruire delle lotte appunto con chi viene da una dimensione diversa, però vedere che stai nelle stesse condizioni, che di fronte ai picchetti, così come poi di fronte alle lotte all'università, stai nella stessa condizione, è quella l'unica vera dimensione di cui si abbatte il razzismo in modo non culturale ma in modo materiale. Cioè, per fare un esempio concreto, no, nelle mille contraddizioni anche delle composizioni sociali che ci troviamo di fronte, ma a Milano, di fronte alla difesa delle case occupate, laddove c'è anche una composizione spuria e problematica, però laddove dice sì, di fronte a questo problema ci uniamo rumeni, italiani, marocchini, cioè no, in una dimensione anche larga, per difendere un obiettivo comune, lì si cementano e si costruiscono un antirazzismo non culturale, non di bandiera, ma appunto poi anche una dimensione, cioè questo per dire che appunto o si rovescia la dimensione anche di classe, partendo dalla dimensione di razza come un punto di applicazione forte, perché poi è vero che sulla razzializzazione siamo tutti sfruttati, ma sulla razzializzazione ci sono dei processi molto particolari, proprio di brutalità in tutti i sensi, però o riusciamo a rovesciare un processo più largo, oppure rischiamo di rimanere appunto in dei cambiamenti di facciata, in dei cambiamenti giuridici potenzialmente positivi o meno, solo di facciata. Dobbiamo provare a cambiare quella che è la situazione. Il problema, poi mi ci sto riferendo, il problema è che è quasi alla Bauman, nel biopolitico, cioè nel senso la relazione tra le razze, una gerarchia, pure mia madre a un certo punto fa chiudi le finestre, mia madre è negra, chiudi le finestre, arrivano gli albanesi a rubare, razzista con gli albanesi. Cioè, nel senso, per dire cosa, che qualsiasi sia l'azione, il problema è il campo d'azione. Cioè, il poliziotto contro Mike Brown agiva con una legittimazione che era culturale, che è stereotipata, che è cresciuto così. E penso che più di questo da rifletterci è come innestato, cioè il processo di razza nelle menti di tutti, come se fosse una cosa normale, normativizzata, quello che è il come dire, quello che è davvero la scala gerarchica delle razze, cioè nel senso come ognuno di noi si porta dietro e sta bene, quasi per qualcosa di infuso, poi non so, con l'educazione che abbiamo avuto, le varie questioni dei media. Quello che è il concetto, cioè, se tu sei fermato come nero africano vieni trattato in un modo, se pensano che sei nero americano vieni trattato in un altro modo, ecco, tutti questi modi di relazionarci a livello di multietnicità crea di per sé, al di là poi dopo delle sovrastrutture, delle tecnostrutture, economia, diritto e quant'altro, creano dei veri e propri presupposti alla non coesione. Come posso dire il contrario di coesione? Qual è il contrario? Io non sono d'accordo, non credo. Esatto. Che, non credo che sia per questo problema, volevo aprire, esatto, non credo che sia un problema soltanto culturale. Sicuramente c'è un dato culturale, un dato di anche di esperienza, ma sono dati di esperienza che stanno dentro con contesti che sono molto concreti. Cioè non credo che sia utile peraltro ragionare su una dimensione culturale del razzismo, perché abbiamo di no, io non stavo facendo un problema di per sé culturale specifico al caso concreto, il mio problema è proprio nei dispositivi che abbiamo di potere che in qualche modo creano poi dopo. No, dico che poi dopo creano e sfociano nella riproduzione culturale, quindi posso dire, sono vasi comunicanti, cioè creano una cultura che si nutre di quei dispositivi della biopolitica, di quella società liquida vera e propria che veramente poi dopo vanno a contaminare la cultura, questo voglio intendere, con gli aspetti culturali che noi usiamo come bagaglio di esperienze per relazionarci. Questo voglio dire, cioè nel senso, quello che è un assetto istituzionale delle sovrastrutture rende poi dopo quelli che sono i caratteri di cultura, cioè io chiamo la polizia solo perché sono bianco e ho un bel cappotto di 3.000 dollari addosso, se sono nero non la chiamo la polizia, scappo via. In questo senso qua, come un modo di relazionarsi davanti alle contingenze che ci dà una società multietnica. Non so se sono stato chiaro, perché prima c'era... perché prima mi faceva riflettere questa cosa, invece perché in un assetto risposto alle donne che parlava lui, stavo pensando anche a quello che dicevi tu prima, sulla segregazione, gentrificazione, cioè è proprio un apparato, tutto l'apparato di per sé, secondo me questa macchina che crea discriminazione è creata dalla considerazione dell'uomo bianco, cioè la gente è di colore. Partiamo sempre dal pure nel lessico di tutti i giorni, non so se mi spiego, cioè quello lì che diceva Malcolm X, nero è bello, dice la parola nero, non ci troviamo. Ecco, io qui ritrovo i caratteri culturali a volte, cioè nel senso di quella cultura che anche lì, come quando si parla di una donna con le palle, del sessismo, come devo dire, quei modi di agire culturalmente che riproducono anche inconsciamente dei processi che ha i dispositivi poi quelli che fanno che non vanno altro che a giovare, cioè nel senso che so, una cosa che mi ha impressionato assai, non la facciamo più facile, Django, mi sono visto il film, bello, il nero a cavallo, il film splatter, la cosa, poi vince, questa è stata una delle critiche che più hanno portato e comunque ha risposto lo sceneggiatore. Tu hai vinto, hai fatto tutto e poi dopo questo schiavo che viene portato da un cacciatore d'Italia a scoprire dove è nascosta la sua moglie, anch'essa schiava, Giovanna, e in quel caso lì lui è uno schiavo figo perché lo portano nelle fabbriche, nei campi di cotone a cavallo, lo veste con abiti dignitosi. Gli dà fuoco poi. Da fuoco a tutto. Sì, esatto, da fuoco a tutti, però poi dopo si mette i vestiti di Leonardo DiCaprio. Si mette i vestiti del cattivo. Io quella critica lì l'ho fatta prima da me, poi dopo l'ho ritrovata. È nucleare. È la stessa cosa della riappropriazione della Esatto, esatto. No. Per questo stavo un attimo creando un attimo un dibattito, una discussione su quel profilo là. Cioè nel senso, io esco a lottare, il fine ultimo non lo so, però di sicuro devo dare un indirizzo. E il mio indirizzo non è né il permesso di soggiorno né ereditare quella macchina che produce marginalità, cioè non è che io sono arrivato presidente degli Stati Uniti e anche noi, perché è un discorso che bisogna essere molto poi sensibili dell'immaginario. Se questa è stata la causa dei miei problemi, non posso io lottare e poi comportarmici allo stesso modo. Cioè indossare quei vestiti della classe del 700 è anche un modo di... non lo so, non ti so dire fino a che punto si crea un effetto di rottura vera e propria. Sono critico in questo anche con, come si dice, con l'NBA, adesso non va più di moda il nero baschettiano con gli abiti pop, che rappresenta quello che è uscito dal ghetto e ti dice guarda, nonostante voi siete i bianchi che ci avete le squadre, il basket lo esprimiamo noi, ma vengono rappresentati varie icone e figure. Per bene, negro nerd fashion, l'ultima moda degli stilisti americani, cioè nel senso ti ritrovi questi giocatori che ti dicono no, noi siamo persone, va tutto bene negli Stati Uniti. Quindi non c'è più bisogno di quella rivendicazione portata in tutte le nostre manifestazioni, dalla cultura musicale a quella sportiva, dove i neri sono molto rappresentativi. Perché quello sono. Quindi non lo so, cioè nel senso, sì, ok, analizziamo adesso i Riot, però pro futuro, cioè. Per esempio, una delle cose che veniva fuori da questi materiali che abbiamo raccolto. Perché era... io poi non l'ho letto, sto parlando, come si dice, purtroppo sì, nel senso ho avuto cognizione di alcune parti, però di tutto il tutto. No, ma la cosa che dicevo, che una delle cose che veniva fuori era come c'è anche nelle analisi rispetto a cosa sta succedendo nelle comunità afroamericane, nelle minoranze degli Stati Uniti, un po' questo discorso di la fine della speranza rappresentata da Obama, che sicuramente le classi medie afroamericane, le classi non i latinos perché forse non hanno quella dimensione di integrazione, ma sicuramente gli afroamericani avevano sostenuto, e anche i latinos per la verità, avevano sostenuto Obama in modo molto, cioè nel senso c'era tutta la comunità afroamericana, tutta, che l'ha soprattutto sostenuto. Le classi, insomma, è finanziata anche da anche dei bianchi californiani a volte, sai, come però diciamo la comunità afroamericana aveva riposto in Obama delle grandissime speranze. Oggi queste speranze, di fronte a un presidente che ti dice mantenete la calma, siate civili, pure che vi ammazzano, sono cazzi il disincanto, dici. E questo è uno dei motivi che spinge in qualche modo a, cioè come se quel ruolo di mediazione che la classe media è i leader del movimento dei diritti civili, Jesse Jackson contestato a Ferguson, si presenta lì per dire adesso ragazzi state bravi, faccio ci sono io, gestisco tutto, cioè questo ti dice che in qualche modo si è rotto, come se si fosse, potrebbe essersi rotto, poi è difficile da qui cogliere precisamente le cose, però un po' come se comunque fosse stato messo in discussione. Questo sì, aspetto ma... qua che è sicuramente un aspetto importante, sicuramente un aspetto no, centrale di questo ruolo di mediazione che la classe media storicamente dentro il sistema sociale svolge, la classe media afroamericana aveva sicuramente svolto questo ruolo qua. Sì, io mi ritrovo quello che dici, una disillusione, perché comunque ti ritrovi che l'afroamericano ha raggiunto, come si dice, i vertici della rappresentatività con Obama, ha raggiunto una legislazione di tutele formali apparenti, cioè che dobbiamo fare più, in poche parole, cioè nel senso se anche Obama non può, questo interpretando sì, poi il discorso della classe media e degli afroamericani che si sono visti protagonisti della campagna, cioè l'hanno proprio trascinato all'elezione, alla prima elezione. Il mio punto di vista sulla questione, su questo accenno che tu dicevi, è che già nel 2008 per me Obama non era la speranza, così come non lo era per molti giovani afroamericani. È logico che c'è un mainstream, è logico che c'è stato, io sto semplicemente dicendo che questo disincanto sono contento che è arrivato, perché comunque alla fine siamo arrivati al limite di quella tolleranza che vengono comunque rotti tutte le forme di rappresentatività. Però il mio problema è dire c'è una coscienza vera e propria ancora per poter poi dopo indirizzare il post-riot, cioè nel senso tra gli intellettuali americani saranno poi in grado di creare un'America migliore che vada a fare meno guerre, cioè la loro sofferenza, il loro portato di 300 anni di soprusi e quant'altro li ha resi in un modo differente. Io questo voglio intendere, poi dopo nella mia visione da nero di un altro lato dell'Occidente, con i neri che comunque poi dopo quando ci si vede per strada comunque c'è quella connessione, sai, tra negritudine. Per dire cosa? Cioè, riesci comunque a far tesoro di questa tua lotta mentre stai facendo la lotta? O anche tu, perché fino ad ora, questo stanno dicendo i giovani, voi avete combattuto ma non eravate diversi da chi ha imposto quelle cose, anzi, ci state ancora a tavolino. Riusciamo davvero a creare quella sinergia che viene poi dopo tanto decantata nei primi capitoli della Costituzione? Cioè, nel senso, è facile resistere alla repressione, creare poi l'azione, come dicevo prima, cioè, da che direzione puoi andare? Cioè, cosa fa? Io sono molto... il futuro non lo sa nessuno, è logico, però le premesse che vedo adesso è particolare, cioè nel senso fare Williams un cantante. È un concetto politico fondamentale, quindi che se fa? Quello ce l'ho sempre. Sempre le pratiche, no? Come dire una cosa, però secondo me ritorno al ragionamento di prima, nel senso fare indicazione sulle condizioni materiali. Cioè perché adesso un po' il ragionamento... Sì, ma lo spontaneismo, parliamo del sì, spontaneismo... Sì, proprio per il dopo. Cioè ora il razzismo è stato messo fortemente, prima cioè due azioni sono state fatte, è stato messo a galla in una società che comunque... Magari dopo vengono le donne, cioè ci liberiamo da nere e poi le donne le trattiamo ancora male? È stato prima messo a galla, è venuto fuori in una società comunque americana che invece si decanta essere appunto multiraziale, ed è stato contestato nello stesso momento. Il dopo, forse sono davvero, cioè, le condizioni materiali, nel senso che io materialmente, io nero afroamericano, mi voglio sentire con le stesse possibilità materiali per raggiungere quell'uguaglianza che non è soltanto verbale, ma che è pratica, fattiva, e quindi ritorna alla linea di classe. Poi secondo me, rispetto alla cosa che dicevi Gianno, invece io l'unico elemento di critica che trovo in quel film è proprio la figura della donna. Giovanna, perché se nega si deve chiamare Giovanna, si chiama la punga punga? No, non è vero, perché le moltissime nelle storie afroamericane sono diffusissimi nomi italiani. Ma non lo metto in dubbio, anche io c'ho il nome francese, il nome del mio paese, Montea, e sto dicendo perché nel mainstream... Perché nel mainstream, capito, scusami, perché... A parte questo, però, secondo me lì l'elemento forse di critica è la donna, nel senso che è di nuovo lo schiavo che però appunto diventa cattivo e dà fuoco a tutto proprio per scrollarsi con l'immagine di servo che aveva addosso. Cioè, nel senso, il fatto che appunto gli afroamericani, ok, avete accettato la vostra condizione di schiavi e quindi in un certo senso siete inferiori perché non avete questo amore, orgoglio per la libertà. Solo un nero potrebbe accettare di farlo. Esatto, lui si scrolla di dosso questa immagine culturale anche che gli era stata appioppata e dà fuoco a tutto. Però è lui che salva la donna. E dopo che la donna è stata salvata dall'uomo, soltanto dopo che è stata salvata dall'uomo, alla fine può prendere un fucile in mano. Quindi questa... Però la cosa che in questo film, scusate se mi intrometto, c'è anche la parodia, secondo me, di... della cultura occidentale. No, la parodia, sì, della cultura occidentale attraverso la scena finale, che è la scena di Via col vento, l'uomo che salva la donna e la donna anche... che salva l'uomo. Cioè, più o meno, è come dire... pure una rivisitazione, sì, ma cioè mettere in discussione, cioè punti di accorgimento rappresenta, no, è una roba la molto la familiare del cinema hollywoodiano. Oppure quello lì che poi lo affranca, diciamo, che prende un libro, li legge al Dumont, sai che una poesia, dice, sai che alla fine è nero, quindi c'è anche una critica a tutta la costruzione culturale. Per questo secondo me quello che diceva di te è veramente importante, nel senso i dispositivi di potere passano, come sono sempre passati, attraverso una costruzione di sapere e di discorsi, che è quello poi che ha fatto sì che la classe media afroamericana abbia incarnato l'immagine del nero buono, il nero che ce la può fare. Il film La ricerca della felicità è quello di Will Smith, l'hip hop è diventato quello, i giocatori di basket sono diventati quelli, e il potere, tra virgolette, giustifica il proprio razzismo assolutamente robusto e rigido attraverso questa immagine qui. No, però noi neri, ad alcuni neri, cioè alcuni neri ce l'hanno fatta, quindi vuol dire che ce la possono fare. È lo stesso discorso, per esempio, del pinkwashing sugli omosessuali. Gli omosessuali vengono accettati, sì, però in alcune civiltà, però soltanto quelli fighi, palestrati, che si vestono Calvin Klein. Quelli però magari che vogliono farsi la vita che vogliono e magari prendere un figlio, no, quello omosessuale no, è lurido, è depravato e quant'altro. Quindi questa cosa dei dispositivi culturali sono importanti, perché poi la classe media afroamericana è quella che ha messo in crisi il radicalismo afro. Quindi poi è tutto il discorso fuori. A me viene in mente... quando Gilroy in Black Atlantic riporta Stuart Hall e dice ok, la razza è il modo dei neri di viversi la classe, e poi lui aggiunge il genere è il modo delle nere di viversi la razza. Cioè, forse una delle scoperte, se la vogliamo chiamare scoperta, più significativa che forse i Ryan hanno messo a nudo è che se c'è una caratteristica peculiare del capitalismo contemporaneo è proprio quella di essere un sistema d'accesso differenziato, e forse Sacchegge e Raiot stanno dicendo proprio questo, ossia noi abbiamo il sacrosanto, se vogliamo chiamarlo così, di godere, di accedere alle cose esattamente come lo fanno tutti quanti gli altri. Questo vuol dire che, come dici tu, come dice il film Django, cioè che il capitalismo avrà sempre bisogno di una parzialità da mettere sotto condizioni di sfruttamento, e forse i Riot e i Ferguson parlano proprio di questo, ossia noi non ci riconosciamo più come parzialità e la presenza bianca che solo testimonia, ma piuttosto ci riconosciamo come un unico grande mamma che decide ovviamente di accedere a tutta una serie di cose per un momento uguale. Quindi forse lo sconcerto nei confronti di Obama e della classe media, diciamo, viene un po' messo a nudo, però da una linea che non passa tanto per la razza quanto piuttosto per la classe. Sì, Sarà forse da questo che si spera le cose ripartiranno dopo. La questione della classe è importante. Purtroppo la classe e razza hanno sempre viaggiato su canali molto, cioè, del tutto paralleli. Anche quello che diceva Marianna prima, dei dispositivi. Io l'unica cosa che mi auguro è che, cioè, davvero, nel mio punto di vista, una lotta deve essere funzionale poi alla creazione di una buona coesistenza. E quello è il fine ultimo, cioè avere il riconoscimento di una parità per creare discriminazione, per creare diseguaglianza, per comunque alimentare quel sistema che è incardinato e personificato dalla società americana. Come dire, davvero è un tassello così delicato per quello che è il discorso degli Stati Uniti, perché sì, ti puoi emancipare quanto vuoi, ma seppure tu continui a mangiare, a fottere più di un terzo del mondo, non va bene, cioè, per quanto possiamo avere questa connessione sulla questione della razza vera e propria. Ma anche di classe, come diceva Bertaresti, sulla questione di classe, cioè rendiamoci conto di quale contesto comunque stiamo tenendo in considerazione, cioè abbiamo sempre gli Stati Uniti d'America, che per me all'interno poi dopo degli assetti geopolitici, ma anche dell'immaginario mondiale, hanno un'incidenza su tutto quello che rappresenta il mio punto finale delle lotte, ma pure come fonte parecchio forte, cioè nel senso io gli Stati Uniti sono molto con le pinze, quindi le loro comunità se lottano e cercano di conquistare delle posizioni o quello che è, in quel caso lì sì che ben venga, però la cornice in cui lo fanno spero che venga comunque in qualche modo contaminata a sua volta da queste lotte in senso positivo, ecco questo è il lavoro che posso fare, altrimenti da come vedo l'assetto sociale. Ci puoi cambiare i tasselli, però effettivamente la rendita capitalistica è sempre la stessa, creando e sfruttando. Ora possiamo chiamarci neri, tra un po' di anni potranno chiamarsi così, prima si chiamavano bambini, cioè nel senso, non so, le fasi storiche sono lunghe, quindi ben venga, magari non le vedrò, però boh. La società americana si contraddice continuamente, quindi sembra un po' Don Chisciottiana la cosa, io la vedo, questo è il mio problema. Cioè, posso apprendere come se fossi Sancho Panza a fianco a lui, che capisco la cosa, sto vicino, mi rendo conto, sono praticamente lì, agisco, penso con la mia testa, però. Vogliamo. Niente, mi voglio fermare io, più che altro. No, che mi sento freddo. Grazie.